giugno al Medicina Live Festival nel Parco delle Mondine. Se vuoi saperne di più, www.medicinalifefestival.it. A Radio Città ti dico solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua in perfetto orario, ben ritrovati sui 103 e 100 in modulazione di frequenza. Chi vi parla è Franco Paoletti. Al di là del vetro, all'apparato tecnico tecnologico, c'è il nostro Bolognese Volante. Salutiamo anche il nostro collega, vero regia? Che non sa il nome. No, lo so Riccardo benissimo. Platone. Riccardo Platone, lo so benissimo. La vedo dalla sua faccia. No, no, ma cosa dice? Ma cosa dice? Io conosco tutti i nostri collaboratori, sono tantissimi, simpaticissimi e bravissimi, perché ognuno di loro mette quel quid e fa grande una radio che è già grande di suo. Bene, dopo questa sviolinata, andiamo con la puntata, anche per noi la puntata numero 20. Ma come passa le settimane sono uguali per tutti. Sia per Platone che sia per noi, chissà come mai. Beh, il palinsesto è iniziato lì e quindi ovviamente per tutti le domeniche sono quelle. Qui succedono cose strane. E oggi abbiamo molta carne al fuoco, è vero regia? Platone ci ha rubato un po' di brani italiani, ma anche noi ne abbiamo altrettanti, e ne abbiamo altrettanti anche inglesi. E quindi rimanete sintonizzati con noi, andiamo a sviscerare le novità di questa settimana, novità indie molto interessanti e anche curiose per certi versi. E allora bando alle ciance e direi innanzitutto 333 180 94 94, per chi ci stesse ascoltando non via etere ma con i potenti social, giusto regia? Via streaming più via che social streaming, va bene, con social. Lei social, streaming fa tutto, per me è tutto mescolato, Spotify, tutto uguale, anche il broadcasting, sì, sì, tutto uguale. Andiamo avanti Paoletti, annunci brani e quindi cominciamo con il ritorno di Fabrizio Tavernelli, un album straordinario, quello che ha licenziato da poco. Noi ci ascoltiamo I Giganti, che apre il suo nuovo album, quindi direi di ascoltare Fabrizio Tavernelli subito, immediatamente. Lo vedi il cielo rosso, se c'è un record io lo batto, attendo il grande evento, costruisco il grande centro, giro in tondo all'infinito, riempio ogni buco, voglio dare un senso al nulla, Un album veramente straordinario, quello di Fabrizio Tavernelli, di Giganti, l'estratto da Resa Incondizionata, dove lui dichiara: la mia resa incondizionata alla narrazione, alla retorica, alla resilienza, alle 300.000 ipocrisie che mi circondano. E come dargli torto, in effetti un album meditato e molto interessante, che va così ascoltato, direi rima per rima e insomma frase per frase, perché insomma ce n'è veramente per tutti e ci sono delle denunce ben precise e interessantissime. Speriamo di averlo qui, no, nei nostri studi, per così per approfondire questa tematica. Un saluto a lui e ovviamente un saluto Correggio, a Fabrizio Tavernelli, esatto, a tutta Correggio, visto che insomma ci siamo. E a questo punto velocemente andiamo con la prossima selezione musicale. Abbiamo La Scelta, un gruppo interessantissimo che ritorna con L'uomo che fotografava le nuvole. Come adesso lo sai, come ieri, proprio io che non credevo alle favole. Se mi cerchi al mattino mi vedi fotografare le nuvole. Nella testa pensieri a martello e la fronte le mani le ho sempre più ruvide, più ruvide. Dormo poco, la notte rincorro, gioco a carte a metà con la luna e non ho mai avuto fortuna di giorno. Solo una volta quando ti ho conosciuto, un aereo lassù che mi porta in un posto impossibile, qui tutto sembra difficile, voglio tornare invisibile, fotografare le nuvole, fotografare le nuvole. Lo sai anche domani sarai pronto a rischiare, ricominciare senza nemmeno pensarci. Anche se sto perdendo i minuti, i capelli, ma non i sorrisi. E il suonare del vento in quest'alba è più bello fra tutti i vinili. Fotografare le nuvole, fotografavo le nuvole, le nuvole. Forte come quando mi sei accanto, fotografava le nuvole, quest'uomo che non si arrende. La Scelta, l'uomo che fotografava le nuvole, in questa domenica 19 maggio che sembra estate, Paoletti? Oggi sì, veramente abbiamo una bella giornata di sole e spero comunque siate in tanti a seguirci, soprattutto via streaming, se nel caso foste usciti. Allora, parliamo invece della Scelta, che è, quando si dice un gruppo indie, indipendente, vero, mi cade l'occhio sulla Scelta. Sì, perché a parte che essa è composta da quattro artisti grandiosi più insomma altri personaggi che ruotano intorno a questo gruppo, nel febbraio 2008 erano ragazzini, si classificarono al secondo posto al Festival di Sanremo 2008 con il brano, se non sbaglio, Il Nostro Tempo, categoria giovani, e poi da lì vinsero il premio AFI e poi da lì iniziò insomma il loro debutto con il primo album e via via insomma per le strade così europee, un po' qui un po' là, finché non li ha voluti addirittura Ron per aprire i propri concerti in più di 100 date. Poi insomma sono andati all'estero, sono stati acclamati, hanno fatto un album veramente incredibile con 24 artisti appunto indie, in cui appunto duettavano con tantissime canzoni anche famose. Che dire, non si sono mai fermati, però vanno e vengono, come si suol dire. E attenzione, il loro marchio di fabbrica sono i loro video, perché ogni loro video è curatissimo ed è bellissimo. Ha fatto bene a dirmelo, perché andrò a vederlo. Ecco, detto ciò, questo è il loro nuovo singolo, L'uomo che fotografava le nuvole. Passiamo invece a un artista, lei si chiama Martina Miranda e ci presenta Taxi. Se tu mi estrani andiamo in taxi, vieni a casa se non parti, la camorra in cui hai me. Tu sempre busca alla morti, Di Miranda, Martina Miranda, Taxi, è un brano dance che potrebbe anche confluire nella famigerata compilation dance, chissà. Chissà. Devono sgomitare ormai questi brani, no, perché io sono voto tanti. Per il sì, invece. Incuriosa questa cantautrice italo-argentina che si chiama Martina Miranda. Non confondersi con Miranda Martino, che ora ho visto, insomma, che è ancora viva. Pensavo fosse morta. Povera. Poveretta, però oh, così. Tra l'altro ho scoperto che lei è nata a Moggio Udinese, quindi ecco casa mia. Quindi un saluto a Udine. Un saluto al Friuli. Friuli Venezia Giulia, esatto, visto che arriviamo anche là, sì. E quindi dicevo, questa cantautrice italo argentina, infatti si è capito perché canta con due lingue, vero, un po' in spagnolo, sì, un sì, po' in argentino, così in italiano, sì, vuole evocare un po' un amore così in cui lui e lei vogliono essere vicini per insomma non diciamo nulla, non diciamo altro. No poi le teniamo 24 avanti. Anni, pensi un po', è un progetto musicale, una ragazzina che praticamente è un paio di 45 giri che sta girando, e quindi chissà. Se non dica niente. No, va bene, non lo dico, fioriranno le sì, rose. I rosetti, va bene. Allora, la prossima scelta musicale trattasi di Amaranto, Darwin, il titolo del pezzo. Mi guardo intorno al riccio sopracciglio, non ho toccato neanche un goccio di gin, ma si è stravolto tutto in uno sbadiglio. Ferma la macchina, scendo da qui. Quella guerra non esiste più, abolita perfino dai libri di storia. L'interesse è puro tabù. Oh, uomini lupo, sui ricordi di un tempo che fu. Lì, super Marvin che ci propongono Amaranto, oppure Amaranto che ci propongono Darwin. Adesso Paoletti ce lo spiegherà. Amaranto è una cantautrice, inizia il suo percorso artistico nel 2022 con la pubblicazione di Sirena. E poi partecipa addirittura a Casa Sanremo Live Box. Nel 2023 inizia a scrivere proprio lei stessa le sue canzoni, perché non si sentiva rappresentata molto, e inizia con un primo singolo dal titolo Senza di te, che è uscito ottobre scorso, e questo è il suo nuovo singolo. Da non confondersi con Darwin, era un album degli anni 70 famosimo, non dico altro. Non so niente. Sono una capra. Basta. Sono l'ora 15:15, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko sui 103.10 in FM di Bologna. La trasmissione che state ascoltando è Easy Pop, vero Paoletti? Certo, è proprio così. Quindi la prossima è ad appannaggio di Samuele Riccobene, ci presenta questa Al di fuori di me. Vivo un'immagine dentro, vuoto nel circo centro, ho scritto fragile sul cuore, ma non so dove. E frasi di circostanza, e bla bla fuori di testa, un vino senza sostanza, in cui vedo attraverso, ma non è lo stesso. Scrivi paura nella tua vita, perdi l'inchiostro. Impara a fare un passo indietro per giustificare il senso di una rabbia che trascende. Una ragione al di fuori di me. Al di fuori di me. E stammi lontano al di fuori di me. Al di fuori di me. Busso il destino al di fuori di me. Sono chiusa dentro un libro senza chiavi, perché riscriverò quell'universo. Sono folle e perverso, mi chiedo se sarà giusto per me. Una linea c'è, ma non c'è inizio e non c'è fine. Scorro tra le mie dita quei disegni fatti da bambina. Una storia infinita, tu falla finita. Nulla di disegnato, niente di quello che hai immaginato. È solo un volo d'alta quota che non è disperso. Timbo solo il verdetto di quella vita che tocca la cima senza colori. Ma questo non è politicamente corretto. Scusa, non l'ho mai detto. Carpe Diem il mio passaporto. Vivo per sempre al di fuori di me. Al di fuori di me. Stammi lontano al di fuori di me. Al di fuori di me. Busso il destino al di fuori di me. Sono chiusa dentro senza chiavi, perché riscriverò quell'universo folle perverso, mi chiedo se sarà giusto per me. Samuele Riccobene, Al di fuori di me. Sì, Samuele cresce con la passione per il canto già a 5 anni, e poi alle 3, quando aveva 13 anni, comincia a promuoversi e a fare i primi passi, prima in teatro e poi formandosi piano piano, insomma, dalle sue parti, fino ad arrivare al Festival di Castrocaro, dove ha partecipato, così, insomma, come esperienza gli ha dato tanto. Nel 2021 poi partecipa a X Factor, arrivando alle audition, e poi via via, insomma, inizia proprio la sua carriera musicale, ad aprire anche i concerti di Clementino, di Tony Esposito e di Chiara Gagliazzo, che non è poco. Marzo 2023, insomma, ha firmato il suo contratto con l'etichetta Up Music, che è un'etichetta, insomma, prestigiosa. Un in bocca al lupo, perché io ci tengo questa Up Music, perché, insomma, è molto molto lavora molto molto bene, a mio avviso. Detto ciò, regia, piatto numero uno. Sì. Zise ci propone, Paoletti, Occhi nuovi. Ho sognato di te l'altra notte, non è successo nulla tra me e te. Tutto quello che è stato completamente sparito tra le nuvole. Ho avuto l'opportunità di riscrivere la storia di quei giorni. Io mi sentivo in colpa e prima o poi tutto crolla, perché ormai quegli occhi nuovi sono portati via. Tutte quelle sere perse la malinconia. Ora perditi nel fondo di un bicchiere, perché in tutte queste sere penso a tu. Colore di capelli rima, non solo stracci di fogli con vecchie canzoni d'amore, d'amore, d'amore. quella flebile scintilla per una piccola notte durata un secondo tra me e te, e salutami da così lontano con quel cenno agitato come se niente ci fosse stato mai. Mi saluti, ti giri e te ne vai. Ormai quegli occhi nuovi sono portati via, tutte quelle sere perse la malinconia. Ora perditi nel fondo di un bicchiere, perché in tutte queste sere penso a ad un altro colore di capelli rima, non solo stracci di fogli con vecchie canzoni d'amore, d'amore, d'amore, castelli di sabbia bruciati al sole. Ma ora penso ad altro che a te, ma ora penso. Interessante anche questo brano che ci propone Zise, Occhi Nuovi. Adesso Paoletti ci parlerà. Beh, lui è giovanissimo, esordisce proprio qualche anno fa e da praticamente pochissimo al suo contratto con una piccola etichetta molto molto prestigiosa, Occhi Nuovi, quindi disco diciamo ufficiale d'esordio con questa etichetta. Che dire, che lui è giovanissimo, è nato nel 2003, quindi fate i conti, 21 anni e già così lanciato, chissà che cosa ci servirà per il futuro. Lui è anche un autodidatta, inizia praticamente fin da piccolo ad avvicinarsi però alla batteria, stranamente, e poi via via insomma alla musica, finché a dargli la molla definitiva a cantare è stato il Covid, perché non sapeva giustamente cosa fare a casa e si è dato insomma alla scrittura e al componimento. Bravo, ha fatto bene, perché insomma è arrivato questo Occhi Nuovi, devo dire, beh, per quest'estate un bel brano che rimane, perché rimane in testa. Bene. Adesso invece regia. Sophisticated Music con sì. Johnny Burgos featuring Lisa Colby ci sì. presentano Old Man. Old Man, look at my life, I'm a lot like you were. Old Man, look at my life, I'm a lot like you. Look at my life, 24 and so much more. Live alone in a paradise that makes me think of you. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed. Rolling home to you. Bellissimo questo brano da sottofondo, lounge direi. Ma diciamo che più che lounge è un sound un po' retro, no? Un po' di soul, anche un po' di soul funky. Soul funky, però no? Molto delicato come soul. Assolutamente funky. Johnny Burgos è nato a Brooklyn, è un cantante, un compositore e anche un produttore, un ingegnere del suono. Il suo brand appunto è proprio questa commissione di musica un po' retro, 4, come dicevo e come parlavo con il bolognese, molto di classe effettivamente, molto sophisticated music, e devo dire che ci sta tutto. È uscito insomma questo nuovo singolo che, a cui seguirà proprio un album a breve, bellissimo devo dire, soprattutto brava anche la vocalist che con lui dava Lisa brio, Colby, esatto, dava brio e verve a questo pezzo, Lisa Colby. E che dire, che adesso noi passiamo ad altro, regia, vero? Adesso facciamo un bel salto qua, perché partiamo quantico. Già a brano avviato, perché il brano è un po' lunghetto, sì. E vogliamo sentire anche la voce di Cecchetto che fa rima involontaria, quindi sì. Partiamo Cecchetto, sì. Bravissimi bambini, e adesso rifacciamola tutti insieme. Sorpresa, Paoletti. Sì, da dormire, e attenzione alla differenza tra camminare e nuotare, e nel finale salutiamo due volte. Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macio, clacson, arriva anche Cecchetto e Paoletti. Ok bambini, sono Claudio e Cecchetto, adesso il gioca giue diventa più veloce perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo sarete dei veri campioni di gioca giue. Vai Lucilla, dormi. Ma dica pure Paoletti quello che deve dire a questo punto. È un evergreen, che dire, questa sarà, non so, la quarta, la quinta versione che sento, poi rivista e corretta negli anni. La canzone italiana più ballata di tutti i tempi con Lucilla e Claudio Cecchetto. Allora, siccome Claudio Cecchetto ci vede ben lungo, ha rispolverato questo pezzo e l'ha fatto ricantare per i bambini da Lucilla. Lucilla chi è? È praticamente una web star che è praticamente una sorta di Fatina, che ha su YouTube veramente tantissimi adepti, sì, e quindi tantissimo seguaci, esatto, molti followers, come follower. Va di modo a dire adesso, ed è una seguaci. Vera e propria star che appunto è stata contattata poi da Cecchetto e gli ha chiesto questa cover, ma perché non facciamo questa cosa per divertimento, ah, e c'è il video bene. Addirittura, quindi bambini e anche grandi pensionati potete trovare nella puntata quando verrà pubblicata la prossima settimana di Easy Pop. Esattamente. Sul sito della radio. E mi piace anche questo, non prendersi troppo sul serio. Ogni volta che sento questo gioco giù, io mi metto di nuovo a ballarlo, perché è ora di chiudere per la prima parte. Ah, esatto. Salutiamo. Saluti. Pubblicità. Pubblicità. Rientriamo fra pochissimo. Trovare la badante giusta non è più un'impresa impossibile. Oggi c'è Badabo, l'agenzia di colf e badanti per l'assistenza anziani. Ci occupiamo di tutto, dalla A alla Z. Troviamo la badante giusta per voi e vi liberiamo da ogni burocrazia, perché il cliente è la nostra prima priorità. Badabo è anche servizio babysitter, pulizia e assistenza ospedaliera. Maggiori info chiamando il 328-264-1695 o visitando badabo.eu. Badabo, serietà, fiducia e affidabilità. Scusi, può portarmi una birra? Scusi, me ne può portare un'altra? Scusi ancora, mi porta una birra diversa? Sembrano tutte uguali. Le birre del tuo locale non hanno carattere. Cambia e scegli Lab, libera arte della birra distribuzione. Da oltre 10 anni al servizio di chi ama servire buona birra artigianale. Impianti Spina, consulenza, pronta consegna dei nostri prodotti, inoltre eventi, degustazioni e formazione del personale. E potrai scegliere tra oltre 400 birre, tutte artigianali e indipendenti. Dai più valore al tuo locale con libera arte della birra e lasciati condurre dai nostri beer sommelier. Per info, seguici sui social. Erano qui prima di noi. Preparatevi ad un incontro inaspettato. Dinosauri in carne e ossa. Un viaggio nel passato per scoprire i giganti della preistoria. Il tirannosauro e il diplodoco, ma anche il dodo, la tigre dai denti a sciabola e tanti altri ancora, tutti in dimensioni reali, per un allestimento spettacolare e scientifico. Dinosauri in carne e ossa. Il parco a tema preistorico. Da oggi aperto a San Lazzaro al Parco della Resistenza. Tutte le informazioni su dinosauricarneossa.it. Vez, stasera? Pappa buone birrettine. Sì, ma dove? Vez, andiamo al Public. Ma dov'è? A Castenaso, Vez. Beh, scherzi? È un quarto d'ora, dai. Beh, ma scherzi? Pollegi. La cucina e il bere sono pazzeschi. Ha un parcheggio infinito, tanto spazio in giardino. Dentro puoi vedere i match, opzioni senza glutine e vegane. Hanno anche un bel cocktail bar, ti dirò. Beh, scherzi? Beh, ma scherzi tu? Vuoi che ti facciano anche il piano alla macchina? Public, More Than a Pub, in via Fiesso a Castenaso. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it. Per il ponte del 2 giugno c'è il Medicina Live Festival. Ora, pensaci un attimo, vuoi farti 3 ore di code in autostrada o vedere i concerti di Bull Brigade, Nabat, Solo per Sentito Dire, Mattak, Clever Gold, Pioneers e Solaris? Preferisci pagare l'ira di Dio una piadina o entrare gratis al festival e sbaffare cibo buono e ottime birrette prima di pogare? Ci hai pensato? Allora ci vediamo il 31 maggio, 1 e 2 giugno al Medicina Live Festival nel Parco delle Mondine. Se vuoi saperne di più, www.medicinalivefestival.com. For a time we tried to contact him by radio, no response. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Rientriamo velocemente in studio con la seconda parte di Easy Pop insieme al Bolognese Volante e al sottoscritto che vi sta parlando, Franco Paoletti. 333 180 94 94 per entrare in contatto con noi. Ringrazio tutti coloro che l'hanno fatto fino adesso, cerchiamo di rispondere anche abbastanza velocemente e se avete dei messaggi o qualcosa siamo sempre qua in diretta. Che dire, regia, che siamo pronti per la seconda parte, vero? Taccabanda! Taccabanda, come si suol dire. Allora, l'estate sta arrivando e quindi che dire che tanti personaggi scaldano i motori e cominciano insomma a licenziare, spuntano loro come funghi. Spuntano come funghi, sono tantissimi, ma qui si trattasi di un ritorno di una voce a cui personalmente sono molto affezionato e voi altrettanto. Chissà se riconoscerete il personaggio che ci presenta Per te. Quindi lo facciamo partire? Lo facciamo partire. Partiamo. L'abbiamo lasciato con il 2022, quando è uscito appunto il suo album doppio che racchiudeva i suoi 25 anni, se non sbaglio, di carriera, dove hanno partecipato veramente fior fior di praticamente artisti, tra cui Enrico Ruggeri, Gigi D'Alessio, e poi Masini, e poi Dolcenera, Danti, e poi Legno, Amara, insomma, e altri. Che dire, che praticamente ritorna con un nuovo singolo finalmente in occasione appunto del suo compleanno, che era ieri, è uscito proprio ieri questo. Auguri a Paolo Valesi, a proposito di auguri, auguri certo. A Mary, che ha compiuto gli anni, è vero, la settimana scorsa, 14 se non sbaglio, quindi sono veramente tantissimi gli artisti e quant'altro. Beh, la anche Mary Scialpi, non è un artista, no, ma va bene, però Scialpi per esempio sì, quindi Scialpi, anche sì. Lui è un saluto, quindi auguri nostro a Mary speaker. Scialpi e c'è lo speaker per esempio della nostra sigla, Gabriele Bonini, Gabriele Davide. Sì. No, Davide o Gabriele? Davide Bonini, Gabriele, più capito. Nomi, quindi un saluto e grazie sempre, come sempre lui auguri si presta anche a lui. Gli spot e quant'altro. E che dire, che a questo punto velocemente andiamo con regia Sargassi, che ci presenta non 21 grammi, ma 21 drammi. Con la D, drammi. Cos'altro potrebbe mai succedermi? Pesa 21 drammi. Fra diavoli santi temo i secondi. Lasciami dormire qui fra i miei demoni. Si toccherò il fondo, chissà quanto mancherà lo schianto. Ecco qua Sargassi e i suoi 21 drammi, adesso ci verranno illustrati. Ma certo, non tutti certo. I 21, faccio una sintesi dei 21 sì, drammi. Sì, no, ma certo, ma diciamo che 21 drammi è l'ottavo singolo di Sargassi estratto dall'album Circolo Polare Catarchico, di cui ne parlammo tempo addietro. È l'ottavo singolo da un album compset molto interessanti, e da guardare il video perché è fatto a mo' di cartoni animati, un po' come quello degli Haha Stay, no, cos'era? Sì. Insomma, Take on me, ecco, Stay on me, no, era un'altra cosa. E beh, insomma, in attesa del nuovo album a cui Sargassi sta praticamente lavorando, questo è l'ultimo singolo da questo compset album e devo dire molto molto bello, raffinato l'album, molto molto interessante, e quindi un nome da tenere sicuramente sotto controllo. Tra l'altro lui già vi era approdato alla finale del Sanremo Rock 2022 e poi ha presentato questo album che ha girato insomma in lungo e in largo, tra l'altro girava insieme a Comete. Detto ciò, regia, cosa abbiamo? Abbiamo sul piatto numero 2 Miriam, Almeno di notte. Sentiamo un po'. Disegna un futuro soltanto a matita, per essere sicura di poter sbagliare. Raccolgo ferite solo sotto pelle, per fingermi ribelle. Fermati, senti l'eco dell'estate. portami a ballare. Almeno di notte non brucia l'asfalto, non come te che sei in playlist al primo ascolto. Almeno di notte non brucia l'asfalto, non come te che sei in playlist al primo ascolto. Crema 50 per coprirmi il cuore, brucio per te, non lo faccio vedere. Ho una tua giacca in macchina, profuma di te, puoi lasciarla là. Fermati, senti l'eco dell'estate, bruciami e poi portami a ballare. Almeno di notte non brucia l'asfalto, non come te che sente lì al primo ascolto. Almeno di notte non brucia l'asfalto, non come te. Il sole splende anche se non ci sei, quante promesse vuote ho fatto ai miei. Finisco sigarette e lacrime, giuro st'estate provo a smettere. Tanto non mangi le olive come me, non può essere amore. Fermati, senti l'eco dell'estate, bruciami e poi portami a ballare. Fermati, senti l'eco dell'estate, bruciami e poi portami a ballare. Almeno di notte non brucia l'asfalto, non come te che sente lì al primo ascolto. Almeno di notte. Bello ritmato questo brano di Miriam, Paoletti. Sì, da così anche sottolineare questo, questa voce un po' sincopata, no? Che rimane, poi va, va a tagliare appunto le varie frasi, no? Un po' come ha fatto, insomma, a scuola la stessa figlia di Mango, vero? No? Che canta Angelina. Così Angelina. Allora, novembre 2023 esce il suo primo EP a squarciagola, anticipato da singolo Cinema. Cosa succede? Che quest'artista veramente giovanissima, anche lei è del 99 se non sbaglio, un po' come le coetanee appunto di Angelina, lei è potente, si fa per dire, no? È fortissima nei social, e grazie ai social ha chiesto il crowdfunding per i suoi singoli. Devo dire che è andato molto molto bene, perché è seguita, ha rilasciato il suo EP accompagnato appunto da un primo singolo dal titolo Cinema, e adesso esce il suo singolo per l'estate accompagnata da un team abbastanza importante. E è andata anche a Sanremo, non in fase big, ma insomma è andata lì a proporre le sue canzoni, anche perché a Sanremo solitamente non ci sono solo i cantanti, diciamo, quelli ufficiali, ci sono anche quelli, insomma, a mo' di contorno. Comunque, insomma, c'è il settore musicale che conta, anche vanno anche chi non partecipa, in sostanza. E quindi è andata lì per ritagliarsi anche lei il suo posto, in attesa appunto dei nuovi sviluppi. Questa è la sua canzone per l'estate, quindi brava. Si sente, no, un po' anche questa cadenza un po' romana, no? Questo modo di parlare leggermente, però insomma ci piace. Almeno di notte, questo è il suo singolo, e a questo punto deve aiutarmi lei qui, perché è adesso abbiamo Umas che ci propone Everything. È molto semplice. Umas. Everything. Allora, Umas Everything. Che sound. Io devo dire che i nostri amici cantanti hanno sempre delle grandi responsabilità. Per esempio, per Ames o Umas, non saprei come pronunciarlo. È scritto Umas con due dieresi sulla U e sulla A, quindi sulla pronuncia è particolare. Qui c'è Ames, non so, vabbè. Ma lo pronunci io pronuncio come è scritto. Lui si chiama Samuele Campochiaro, nato a Torino il 2 novembre 2002, subito dopo la nascita però si trasferisce in Polonia. La passione per la musica elettronica gli arriva dal 2016 dopo aver visto su YouTube Martin Garrix al Tomorrowland. Ispirato dal suo idolo inizia a suonare con console e DJ e dopo soli due anni capisce di aver così di voler raggiungere praticamente il top appunto facendo il DJ. Nel 2022 cambia rotta e si dà alla musica house diventando un DJ insomma non da poco. Complimenti, e a questo punto come vedete licenziano anche singoli di grande, come dire, trascinamento, di grande fattura, ecco, diciamo così. A questo punto, dopo Umas, abbiamo, e questa era la sua Everything, abbiamo Fabrizio Festa con La vita di notte. Le 10 di sera hai finito la cena con mamma e papà, torni in camera e dici che sei stanca, gli amici chiami stasera, che si fa? Ti accendi un'altra sigaretta, senti Marta che va di fretta, devi uscire con Luca ma non lo sa. Ogni volta mille scuse, mi ha regalato una mimosa, forse perché Marta ancora non gliela dà. Sei già pronta per uscire dalla finestra, non lo dire, Marta vengo a prenderti per vivere. È la vita di notte, di tutto si se ne fotte e di fare l'amore come ci va. È la vita di notte tra la luna e le cotte, senza fare rumore di cosa si fa. È la vita di notte con le gambe un po' rotte a camminare per ore o qua e un po' là. È la vita di notte, è magia che ci inghiotte, sempre sveglia a dormire, no non ci va. Le tre ancora in giro tra un altro drink e chi fa il filo, ti scambi sguardi con quello che ci sta. Uscite fuori sulla spiaggia, Marta vi guarda e vi coraggia, nel suo divano che si gusta in una park. Ti vivi a pieno il tuo presente, tra le risate e tra la gente, quando cerchi al buio un po' di intimità. Che non vorresti mai rientrare, ma sempre tardi a rincasare, ma un'altra stella bella domani arriverà. Sei sempre pronta per uscire dalla finestra o dal cortile, per prendere il tuo spazio, la tua libertà. È la vita di notte, di tutto si se ne fotte e di fare l'amore come ci va. È la vita di notte tra la luna e le cotte, senza fare rumore. Eccolo qua, praticamente il 16 febbraio 2024 è uscito Cinema Metà, il suo primo singolo estratto dal nuovo lavoro, e oggi l'abbiamo qui con Razza di Ragazza, il suo secondo estratto dal suo album. Ma guardi che è La vita di notte. La vita di notte, sì, volevo invece dire che c'è questo, era confuso con il lei titolo dell'album, avanti, lei è esatto, avanti. Razza di Ragazza è l'album anche la estratto, giustamente. Allora, riepiloghiamo e facciamo finta che appunto il suo album si intitola Razza di Ragazza, e questo invece è il singolo appunto che è estratto da, cioè, questo mi sta album che, Cinema a Metà, che Fabrizio Festa che canta La vita di notte, l'album si chiama come il singolo dopo? No, allora Razza di Ragazza è il singolo estratto da, ha capito? Si titola così l'album. E il pezzo dopo come si chiama? Okay. Non lo so, ce ne sono altri, insomma, questo è il secondo estratto da questo album, e quindi insomma ma questo non è La vita di notte? Non lo so, che questa è la vita, di notte. Lei mi ha fatto sbagliare. Ma no, pagina. Ha fatto tutto lei. Ecco, ho fatto tutto io. Ha fatto tutto lei. Allora, ho già detto l'allora, il tutto, ricapitoliamo, regia. Oh. Questo è Fabrizio Festa con la vita di notte. Glielo perfetto. Giuro, sto guardando. Allora, ho fatto, ho preso, è mia colpa, lucciole per. No, scambiato per, i due singoli. Esattamente. Ma non è che c'è stato un refuso del mio, quindi io ho uno al posto dell'altro. È il brano numero 5. È il numero 5, giustamente, Fabrizio Festa. Oh, allora, vabbè, io di lui non ho nulla al momento. Andiamo avanti. Andiamo avanti e quindi andiamo con Boccuto, razza di ragazza. Oh, di cui dopo ci parlerà abbondantemente. Esatto, parlerò dell'altro, giustamente. No, allora, bando agli scherzi, perché noi qui siamo seri, ovviamente. Allora, razza di ragazza è una ballata che celebra la bellezza interiore, presentato da Boccuto, che appunto ha fatto uscire un album. Questo è il suo secondo estratto, quindi ce l'ascoltiamo. Oh. Oh. Grazie. Grazie perché vengono fuori. Grazie. Grazie perché sembrano fiori. Grazie. Grazie per la primavera. Dopo un po' di così di bailam, esatto, siamo riusciti a dipanare la matassa e abbiamo parlato di Boccuto, esatto. Mentre Fabrizio Festa invece è un cantautore, anzi un curatore così, dei testi di altri personaggi, tra cui Federico Zampaglione, di Tiro Mancino, e poi ha lavorato con Gazebo, per esempio, e poi tanti il mitico altri. Gazebo. Eh sì, quello di I Like Chopin. Eh sì. Ecco, data giustizia anche a Fabrizio Festa e adesso a Boccuto, che abbiamo ancora in sottofondo. Devo dire, per quanto riguarda Boccuto, sta avendo dei numeri molto interessanti, quindi comincia a avere il suo seguito, e quindi in bocca al lupo a lui. Regia, cosa abbiamo adesso? Allora, ultimo brano della scaletta, lo facciamo partire e lei poi dopo mi dirà chi è. Certo. Semplici, un po' banali, io direi quasi imprevedibili e sempre uguali, sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si calano su noi, dai che non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male, parli bene e mi sorprendi quando tiri forte la tua moto dal motore che sento truccato. E va bene, guida tu che sei brava più di me, e attendo che sia amore. Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, più voglio di più. Acqua e sale, mi fai bene. Paoletti, se vuole parlarci non di Mina ma di Adolfo Durante, perché sembrava che ha la voce uguale a Mina, pazzesco. In realtà leggevo che è un personaggio molto interessante, conosciuto soprattutto negli ambienti jazz, e quindi che dire, che ha estratto questo singolo dall'album che ha licenziato da pochissimo dal titolo Suprema, è dedicato, manco a dirlo, a Mina, e ha ripreso questa Acqua e Sale, che è veramente che è impressionante. L'abbiamo detto, Flick e Flock, potremmo fare uno, lo show due, di sessualità tre. Corte, esatto. Ma non mi sembra il caso. Flick. Comunque, il brano è suonato insieme alle chitarre di Alberto Lombardi, una rivisitazione di questo duo celeberrimo, e che dire, che fa tutto da solo con la sua voce. No, è bravissimo. Complimenti, veramente. Sì. Bravissimo. Come direbbe Loretta Goggi, chapeau. Esattamente, io sono rimasto veramente basito, e anche la redazione ha detto no, assolutamente bisogna, se non altro, promuoverla. Ah, sì. Sarà in giro a promuovere questo album e questa canzone, perché insomma è bravissimo. Io direi, cosa può essere un oltre che essere un cantautore, un jazzista, non so, ma una gran voce, e devo dire un gran voce, quasi imitatore, direi. Sì, abbiamo una manciata di minuti per un veloce disco vintage. Ah, allora ascoltiamolo. Che anno Paoletti è riuscito a stabilirlo? Comunque, no, siamo negli anni 70. No, qua, sicuramente sì, sì, pieno anni 70, ma credo fosse del 78. Sì, era contemporanea ai Feel Love, penso. Sì, quelli, sì, esatto, sound, esatto. Si sente. Patrick Jouvet, un francese che qui spopolò nelle nostre disco, allora andavano ancora di moda le disco e la dance, con questo Où sont les femmes, dove sono le ragazze, le ha donne. Detto Patrick Jouvet, è quello di Lady, ormai Lady sì, Lady, esatto, Night, sempre quello, sì, sì, ecco, io conoscevo più quella, che questo è antecedente, era piccolo, questo era veramente, io ero piccolo, sì, veramente piccolo, forse sì, non sì, c'ero sì, nemmeno, no, adesso c'era, non esageri Paoletti, no, non c'ero, ha la sua veneranda età anche lei, non mi faccia insomma, io sono giovanissimo, molto più giovane di lei. Ma non faccia molto più giovane. Ma non faccia, lei. Ma mi facci il piacere, Paoletti. Niente, va bene. Siamo in chiusura, quindi sbaracchiamo. Io raccolgo le mie borse, tutte le mie aggeggi. Anche quindi questa puntata numero 20 di oggi, domenica 19 maggio. Speriamo che la puntata vi abbia fatto trascorrere un'oretta serena in allegria e spensieratezza. Vi lasciamo la programmazione di Radio Città Fucico, che prevede fra poco meno di mezz'ora le corrispondenze di Dani Colaucci. Un saluto anche a lei, e che poi dire? Via via tutto il resto. Beh, del sì, palinsesto, la musica prosegue, non si ferma mai, assolutamente. Se volete riascoltare la puntata, questa come le altre, come quelle degli altri redattori, potete connettervi sul sito della radio www.radiocittafugico.it, cartellina musica, e lì trovate tutte le puntate nostre, dei redattori, eccetera eccetera. Perfetto, è stato sintetico, efficace, bravissimo, bravissimo, e a questo punto bye bye, si conceda anche il Bolognese Volante. Bye bye dal Bolognese Volante. E da Franco Paoletti. Buona bye domenica. Bye bye.